Addio. E andiamo con l'intervista. Para mí esperanzadoras. Sí. Y el próximo mes en Honduras van a estar las elecciones generales, que ve la participación también de un nuevo partido, el Partido Libre, que... Bene, in Honduras nel prossimo mese si terranno le elezioni che vedranno la partecipazione di un nuovo partito, il Partito Libre, il Partito Libero, appunto. E surgió desde una parte del Frente de Resistencia contro il golpe y que tiene como su candidata presidencial Xiomara Castro de Zelaya, que es la esposa del ex presidente depuesto por el golpe. Bene, un partito che è nato da una parte della resistenza honduregna contro il golpe che si è tenuto e che candida come presidente Xiomara Castro, moglie dell'ex presidente deposto Manuel Zelaya. E puede explicarnos el panorama electoral y también la división entre en el frente entre los que decidieron de sostener ese proceso y los que no lo hicieron. La domanda è se ci può spiegare per favore la situazione del panorama elettorale e quali sono le divisioni all'interno, insomma, quali sono i principali partiti. E le divisioni anche tra chi all'interno del fronte di resistenza ha scelto questa via elettorale e chi invece non è confluito nella creazione del partito. A ver, hay que irse para atrás, ¿no? Quando Mel Zelaya sale del paese. Bene, bisogna andare all'indietro, al punto in cui Mel Zelaya fugge dal paese dopo il colpo di Stato. Quando logra negoziare, stando in Dominicana, quando firma il patto di Cartagena. Quando ottiene l'inizio dei negoziati con il nuovo governo, quando si arriva al patto di Cartagena, in cui in cambio del riconoscimento del governo di Porfirio Lobo, eletto in elezioni non riconosciute dalla resistenza honduregna subito dopo il golpe, e in cambio di questo viene concesso al presidente deposto da parte dei golpisti di ritornare in Honduras. Questo successe a Cartagena. Pues firmó el pacto él. No hubo consulta con el Frente Nacional de Resistencia Popular. De hecho, hubo como un poco de sorpresa, ¿no? E fu lui a firmare questo patto senza consultarsi con il Movimento Popolare, all'interno del quale ci fu molta sorpresa per questa decisione. Y pues pacta para poder volver a lo que él sabe de hacer política, ¿verdad? Yes. E fa questo patto per tornare a fare politica in Honduras. Entrare alla contienda elettorale. Ya se había perdido la del 2009, ¿verdad? Y pues no podía ya perderse otra, ¿no? O sea, había que... E già per tornare quindi nella contesa elettorale, già si era perduta quella del 2009, in cui la resistenza non aveva partecipato, aveva non riconosciuto le elezioni, in cui erano andate a votare solo il 15% degli aventi diritto, e quindi non si poteva perdere un'altra contesa elettorale dal loro punto di vista. Apurarse y eran los tiempos, ¿verdad? Para volver y para entrar al ruedo electoral. Y volver y... Era il momento per tornare e per tornare nel gioco elettorale. Volver con esa presión. Yo creo que hay que hacer como varias valoraciones. Una es que hay una cultura electoral instaladísima, ¿verdad? Nosotras tenemos nuestra corta democracia, ¿va? ¿Ha sido así? E quindi vanno fatte alcune valutazioni. La prima è che c'è una cultura elettorale installatissima, che la breve storia democratica dell'Honduras, in cui appunto fino al ai primi anni del 1980 c'era un regime militare. La gente hace política y va, se mancha el dedo, y esa fue su forma de hacer política, ¿no? Es así le hemos entendido por siempre, ¿no? E questa cultura elettorale consiste semplicemente nel andare alle elezioni, macchiarsi il dito, perché in America Latina quando si va a votare devi mettere il dito in una ciotola d'inchiostro per evitare possibili frodi e doppi voti. In questo modo chi ha già votato non può ripresentarsi a votare, è una prova incontrovertibile. Quindi in questo modo è intesa questa espressione manciarsi il dedo. E dice in pratica che la maggior parte delle persone sono abituate a fare solo politica solo in questo modo, solo andando alle elezioni una volta ogni 4 anni. Y lo otro es que los caudillismos son una cosa instalada también en la cultura política. E un'altra valutazione da fare è che il caudillismo, il liderismo è installato nella cultura politica locale, quindi la figura del capo, del grande oratore, grande personaggio politico in cui ci si affida totalmente. Latinoamericana de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces Mel Zelaya es el caudillo. E quindi continua Carla Lara, proprio per questa cultura lideristica, caudillismo possiamo definire con un neologismo, Manuel Zelaya è il capo, è il leader. Verdad. Y el caudillo vuelve. E il capo torna. El caudillo viene a decir que tenemos que hacer partido político. E il capo ha detto che dobbiamo costruire un partito politico. Dico perché hay que. Nosotras alegábamos que la condición del 2009 era la misma del 2013, pues, o sea, nosotras, yo y varias organizaciones seguimos sin nombrar al gobierno como tal, no es el régimen, el régimen. E insomma dice che noi, riferendosi al suo gruppo femminista ma anche altre organizzazioni attive, ritenevamo che queste elezioni del 2013 riteniamo siano uguali al 2009, non ci sia fondamentalmente un cambiamento sostanziale, che il regime è sempre lo stesso. Regime di Porfirio Lobo Sosa. Il regime di Porfirio Lobo Sosa, che appunto è il presidente attuale dell'Honduras, è eletto in quelle famose elezioni truffa di cui abbiamo parlato lungamente. Chi volesse, apre una parentesi, andarsi a riascoltare le trasmissioni sull'Honduras, sono tutte sul nostro sito internet comitato carlosfonseca.noblogs.org. ci sono anche degli approfondimenti che abbiamo fatto dopo il colpo di Stato per costruire un po' di memoria su quello che era successo, e tutti questi documenti sono disponibili sul nostro sito internet. Verdad, y es el continuismo del golpe. Entonces, claro, el retorno de Manuel Zelaya viene a, con ese apremio, ¿verdad? Hay que alistarnos porque hay que ir a eso. Y luego, el acuerdo. E quindi Zelaya torna e dice: bisogna prepararci, perché dobbiamo prepararci alle elezioni, ci dobbiamo preparare a questo, alla contesa elettorale. Acuerdo de que para eso se firmó el acuerdo Cartagena, ¿no? Para que Honduras entrara en una, estaban ahogados. Entonces retornar a la OEA era la garantía de que entonces volvía a entrar préstamo, volvía a entrar todo lo que se hubiera detenido, aunque yo creo. E quindi questa era la finalità dell'accordo di Cartagena, che l'Honduras ritornasse nell'organizzazione degli stati americani da cui era stata cacciata dopo il colpo di Stato, che ricominciassero a arrivare i finanziamenti che erano stati bloccati dopo il colpo di Stato. In pratica l'Honduras è stato riammesso all'interno delle relazioni internazionali, anche se poi effettivamente non erano state bloccate con gli Stati Uniti, che sono comunque il paese con cui l'Honduras ha maggiori relazioni dal punto di vista commerciale, economico e militare. Che esa es una mentirita blanca del sistema, va bien blanca, bien negra, va. Ahí nunca se detuvo nada. E dice che in ogni caso è una menzogna quella che stava al di fuori di queste relazioni internazionali, perché in realtà non si è mai bloccato niente, erano solo dichiarazioni di facciata che non hanno interrotto queste relazioni. Verdad, eso era verdad bluff mediático, no? Pero bueno, en términos de cómo la gente lo miraba, sí, ¿verdad? Ya Honduras regresó a la OEA, ya... Insomma, descrive tutto questo come stato un bluff mediatico, una costruzione giornalistica, però anche nella coscienza comune della gente comunque pensava che comunque l'Honduras è tornato nella Confederazione degli Stati Americani, quindi è cambiato, non c'è più il golpe. Tan democratica sta la cosa e tan reconciliadas estamos y reconciliados que vamos chinchi telepate elecciones, va. Ahí va derecha, medio derecha, izquierda. Va desde el golpista, desde el general del ejército del golpe, va. E insomma, sempre in questa coscienza comune, quindi la percezione che fosse tanto democratizzata, la situazione fosse tornata alla normalità democratica, e quindi andiamo a votare alle elezioni al destra, al centrodestra, al sinistra, anche a votare i golpisti che poco prima hanno rovesciato il governo. Se me fue su nombre ahorita, el Romeo Vázquez Velázquez, pasando por un entretenedor de televisión, ¿verdad? De derecha, Salvador Narrala, que le debe. E quindi tutti i figuri che poi si presenteranno alle elezioni, il generale Romeo Vázquez, che è il protagonista dal punto di vista dell'esercito del colpo di Stato, e un intrattenitore televisivo di destra che naturalmente in quei giorni i media hanno difeso a spada tratta il colpo di Stato, dicendo che Zelaya era un criminale e che stavano ripristinando la legalità istituzionale. Quindi tutti questi personaggi si presentano alle elezioni. Deve dar mucho aire alla derecha, ¿verdad? Necesita oxigenarse hasta el Partido Libre, que en honor a la verdad no es un partido de izquierda, ¿verdad? Tra tutti questi vari formazioni che si presentano alle elezioni c'è anche il Partito Libre, che, ci dice Carla, in onor del vero non è un partito di sinistra. È un partito conformato por diversas fuerzas, ¿no? Un partito diverso, un partito donde yo creo que sí hay mucha gente que dentro... Es que ese es un poco el tema del circo electoral, ¿no? Que es lo menos peor. E quindi dice un partito non di sinistra, un partito dove ci sono tante diverse posizioni politiche accomunate dalla volontà di partecipare al circo elettorale, e le persone che lo voteranno fanno spesso il discorso di votare il meno peggio. Voy a irme como por lo que menos daño va, para poder vivir con la conciencia un poco tranquila de aquí al próximo circo, ¿no? E quindi vado a votare per votare quello che mi causerà meno danno e per avere la coscienza un po' più tranquilla da qui al prossimo circo elettorale. Entonces, yo creo que hay que no hay que ser tampoco tan absolutas. Creo que hay gente muy honesta dentro del Partido Libre. Comunque dice, non bisogna essere così tanto assoluti, così tanto unilaterali, ci sono comunque alcune persone oneste all'interno del Partito Libre. Soprattutto a livelli locali, no? E come explicava una vez, io ricordo una vez una discussione en el espacio refundacional en el que Bertita Cáceres decía que... Soprattutto a livello territoriale ci sono delle persone oneste, come mi ricordavo una volta all'interno di... Lo spazio rifondazionale. La compagna Berta Cáceres, di cui abbiamo parlato la scorsa trasmissione, è una dei dirigenti storici del COPIN, l'organizzazione delle comunità indigene dell'Honduras, che si trova attualmente detenuta nelle carceri honduregne per ragioni politiche di proteste contro una mega diga che deve essere costruita in territorio indigeno. E sì, ce ne ha parlato la volta precedente, insomma, poi l'intervista la potrete riascoltare integralmente. Appunto, ci raccontava tutta anche la lotta e come il caso di Berta Cáceres sta anche aumentando la coscienza dei detenuti politici, che in Honduras sono molti, sono anche, si rifanno anche anni più più in là, insomma. No estaba mal que haramos un poco o revisáramos un poco cómo eran las dinámicas locales, porque... E diceva appunto Caceres in questa riunione che non sarebbe male se riguardassimo un po' a livello locale quali sono le dinamiche a livello politico locale. Había un pueblo donde que hubiese un alcalde del Partido Nacional o un alcalde de Libre iba a significar la posibilidad o no de que se diera, por ejemplo, la concesión de la resistencia, que se hiciera una concesión minera, una hidroeléctrica. Insomma, proprio appunto a livello territoriale, in un villaggio qualsiasi del territorio honduregno, se c'è un sindaco del Partito Nazionale, del partito di destra golpista o del Partito Libre, questo significa semplicemente, significa ovviamente che quello del Partito Nazionale darà molto facilmente una concessione per l'estrazione mineraria. Elettrica, che eso es lo que viene, ¿no? Lo que, no lo que viene, lo que está pasando, ¿no? Y que en términos de esas resistencias había una, ¿verdad? Una necesidad de la gente de que sus autoridades locales fueran otras. E è quello che sta succedendo proprio adesso, con tutti, ci raccontava anche la volta scorsa di tutti la resistenza contro i megaprogetti, contro le estrazioni minerarie e le multinazionali. E questo che insomma a livello locale c'è una differenza. La politica macro tiene otra dimensiones y otras cosas, ¿no? E la politica macro invece ha altre dimensioni, altre valutazioni da fare. Y bueno, y de ahí nosotras, por ejemplo, las feministas, lamentamos mucho, por ejemplo, que doña Xiomara Castro sea una mujer con... E ad esempio loro, le femministe, lamentano molto il fatto che Xiomara Castro sia una donna con un discurso, con presencia, ¿verdad? Y además una mujer que se la jugó, ¿no? Cuando no estaba el presidente, ¿no? Una donna che si espose quando non c'era il presidente, che si fece notare, che prese l'iniziativa. Anduvo, hizo, ¿no? Y ahora es como muy la esposa de José Manuel Zelaya, ¿no? Mentre ora che è tornato il marito è rappresentata e lei si adegua al ruolo di essere la moglie di Manuel Zelaya, del caudillo. Entonces quisiéramos una mujer más, pues además tiene como encargados de su campaña a dos tipos de medios de comunicación que son. E loro vorrebbero invece una donna diversa, e inoltre dice ha nominato come capi della sua campagna di comunicazione in vista delle elezioni due personaggi dei mezzi di comunicazione. Uno es un violador convicto, ¿no? Y el otro es un hombre que también tiene acusaciones de violencia doméstica, ¿no? E uno è un violentatore, è stato denunciato come violentatore, anche l'altro ha delle precedenti di violenza domestica. Y entonces esos son sus jefes de campaña, ¿no? Y una no lo puede como entender cómo, ¿no? E questi sono i suoi capi della campagna elettorale, una non può riuscire a capire perché. Pero como son los medios que han visto que es un buen negocio estar con la izquierda, pues han abierto la puerta, ¿no? E visto che i mezzi di comunicazione hanno visto che comunque è un buon affare stare con la sinistra, hanno aperto la porta anche alla sinistra. Han vendido bien el espacio, porque ahí no se abrió ninguna puerta, sino que se vendió bien el espacio. Puntualizzando, in realtà hanno venduto il proprio spazio, perché non si apre nessuna porta gratuitamente. Y por ejemplo nos asusta algunas cosas como una mujer que se para y está hablando de la propuesta de país. E a noi ci fanno male alcune cose, ci turbano alcune cose, come una donna che si ferma quando sta parlando della proposta di paese. E comienza su discorso in nome di Dio. E inizia i propri discorsi in nome di Dio. y de la patria, y nosotras venimos reforzando una idea y una discusión sobre el Estado laico y la necesidad, ¿verdad?, del establecimiento de un Estado que funcione. Pues ya la Constitución dice que es laico. E in nome di Dio e della patria, mentre noi abbiamo elaborato una riflessione sullo Stato laico, e d'altronde anche dice nella stessa Costituzione honduregna, c'è scritto che è uno Stato laico, Costituzione che in ogni caso per altri motivi i movimenti sociali honduregni volevano eliminare, ne volevano scrivere un'altra, e questo è all'origine stesso del colpo di Stato che si svolse nel 2009 proprio per impedire una consultazione che la cui vittoria avrebbe portato a una nuova assemblea costituente. Entonces no nos preguntamos, ¿verdad?, si que nos puede podemos pensar, sí, que bueno que sea una mujer, pero además también por ejemplo, imagínate cómo son los niveles de contradicción humana, pero yo, por ejemplo, me refiero a los compañeros de Libre como los compañeros. Quindi possiamo pensare che sia comunque una cosa buona che una donna è candidata alla presidenza dell'Honduras, ma per capire un po' il livello di contraddizioni, lei stessa comunque si riferisce a quelli che fanno parte del Partito Libre come dei compagni, come i suoi compagni, anche se poi molti magari non lo sono, insomma, in generale. Verdad, yo soy muy crítica y todo, pero no puedo no verlos como lo más cercano a lo que yo, pues además son los compañeros con los que anduviste, de verdad, después del golpe ahí y antes también. E lei è molto critica, però dice: non posso non vedere che sono i compagni più vicini a me, sono gli stessi compagni con cui siamo andati durante il colpo di Stato, abbiamo marciato con loro, abbiamo preso le cariche con loro, sia durante che dopo che prima del colpo di Stato. In lucha, sì, ahí están, ¿no? Pero, por ejemplo, en Libre, a veces los varones dicen, ya no tienen, ¿para qué quieren? Porque después de las internas, la proporción esa 50-50 se rompió de una manera escandalosa, ¿no? E dice: dopo le elezioni interne al Partito Libre, la proporzione 50-50 tra ex membri del Partito Liberale e membri del Fronte Resistenza si è rotta in maniera evidente. Quedó menos del 30 en mujeres y el resto son hombres, ¿verdad? Y ellos dicen que de qué nos quejamos. In realtà la proporzione non era tra membri del Partito della Resistenza, ma tra donne e uomini, e il dice si è rotta perché le donne invece rappresentano il 30%. Meno del 30% attualmente. Sì, ya tenemos candidata presidenta, y entonces ahí está la presidenta, y para qué quieren más si la mujer que está de candidata, ¿verdad?, presidenta es mujer. Quello che si dice all'interno del Partito Libero, che già il candidato presidente è una donna, quindi le donne si devono accontentare di questo, insomma. Entonces es difícil, ¿no? Es un partido difícil, y pues parte de esas diferencias se reflejan de otras formas. Y has dicho que después. La seconda domanda la sentiamo dopo una pausa musicale, sempre una traccia di Carla Laura, Maria Dolores in questo caso. Como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Dicen que no te deja salir ni a traer agua del pozo, que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo. Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen, soñas que te nacen alas y volas sobre los maizales. María Dolores, María Dolores, y tenés la razón, de nada sirve andarla con llave adentro del corazón. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Questa è Latinoamericana, trasmissione del Comitato Carlos Fonseca. Riprendiamo l'intervista a Carla Lara, compagna honduregna che abbiamo intervistato due lunedì fa, e che stiamo mandando la seconda parte dell'intervista, visto che era molto lunga, molto interessante, e lunedì scorso non siamo riusciti a mandarla tutta. Le due puntate verranno dopo oggi messe sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Riprendiamo subito la intervista a Carla Lara, membra del fronte di resistenza contro il golpe nei giorni del colpo di Stato. Oggi quello spazio non esiste più e insieme agli altri compagni che non sono confluiti nel nuovo partito di sinistra, Partito Libre, di cui parlava prima di questa pausa musicale, è entrato invece a far parte dello spazio Refundacional, che ospita vari movimenti sociali honduregni, varie organizzazioni, tra cui l'organizzazione indigena, organizzazioni territoriali dei contadini contro megaprogetti, estrazione mineraria o di idroelettriche o altri dall'impatto devastante. Riprendiamo quindi l'intervista con la compagna Carla Lara. È difficile, no? Es un partito difficile y pues parte de esas diferencias se reflejan de otras formas. Y has dicho que después de esta ruptura, digamos, nació el espacio Refundacional. Insomma, hai detto che dopo questa rottura è nato lo spazio Refundacional, questo spazio di rifondazione. E quiere explicarnos un poquito che è e che obiettivo politico tiene. Ci puoi spiegare un po' che cos'è questo spazio Refundacional e quali sono i suoi obiettivi politici? Bueno, nosotras el espacio surge precisamente cuando se da la discusión, no tanto en relación a la formación del partido, no. E quindi lo spazio nasce non tanto quando c'è la discussione se formare il partito o meno. No en relación a si íbamos por la vía electoral o no íbamos por la vía electoral, porque era un ma nel momento in cui si discute se si va o meno per la via elettorale. Esta era predominantemente la discusión y el argumento era no cambió nada del 2009 para acá y entonces ¿por qué ahora sí? E la questione era appunto principalmente questa, poiché non è cambiato nulla rispetto al 2009, perché adesso intraprendere la via elettorale? Que no seguimos en otra lógica y obviamente también planteando la preocupación de que si del frente nacía el partido, se iba a trasladar la estructura del frente a un partido político y por lo tanto iba a pasar lo que efectivamente está pasando, y es que se iba a abandonar la agenda política del movimiento social y se iba a iba a imponer la lógica del cartel, della arenga, del meeting político, ¿verdad? Semplifico un po', insomma, sì, la discussione era proprio su come un movimento di resistenza dovesse trasformare in un partito. Questa cosa avrebbe snaturato la natura del movimento di resistenza, avrebbe reso un partito con le sue logiche, i suoi meeting, le sue cartelli elettorali, quindi gli accordi e tutta la via riformista e parlamentare. Il llamamiento al voto y de las precauciones, porque eso es lo más terrible, de las precauciones que hay respecto a lo que se dice y no se dice, respecto a lo que se confronta y no se confronta, para entonces el voto que se pierde o se captura. E quindi tutti i problemi diventano quelli delle elezioni, del successo elettorale, quindi la misura di tutto quello che non si dice e quello che si dice, del voto che si ottiene o non si ottiene, del consenso che si perde o si vince, e quindi cambia di fatto l'agenda di un movimento politico che diventa finalizzato a quello di raccogliere voti. Lo más duro, no? Entonces el espacio Refundacional nace cuando decimos una parte no, ¿verdad? Pensamos que no hay que ir y después también pensamos que no hay que formar así el partido. E quindi lo spazio Refundacional è nato proprio da questa parte che non voleva formare il partito, ma voleva continuare nel movimento di resistenza. La idea pues era pues mantener un espacio de coordinación de. Siempre olvido esta palabra, es un espacio donde convergemos, pues, y donde ponemos como hacemos alianzas. E quindi era proprio uno spazio di coordinamento e di dove convergono tutte le varie vertenze territoriali e dove fare accordi, condividere strategie all'interno del movimento di resistenza. In funzione di esa agenda del movimento sociale che già sappiamo si va a quedar. in funzione di questa agenda di movimento sociale che già sapevamo sarebbe caduta nel momento in cui queste strutture del fronte sarebbero andate, si sarebbero trasformate in quelle di un partito politico. Postergata. Ahora el espacio se ha movido un poco, lo llamamos convergencia refundacional. Ora lo spazio è cambiato un poco, ci chiamiamo convergenza rifondazionale. La pertenencia a la convergencia es un poco también de muchas organizaciones, nosotras también las feministas, como que en muchas cosas le entramos, en otras estamos. Porque también la convergencia refundacional tiene una parte de la convergencia tiene mucho acercamiento al movimiento del ALBA, de los pueblos. E quindi è uno spazio vario, dice, noi come femministe in resistenza in alcune cose lavoriamo, in altre no, ci sono varie componenti, c'è una parte che è molto vicina a quella che è l'ALBA de los pueblos, ossia la corrispondente confederazione di organizzazioni sociali a livello latinoamericano che corrisponde a quello che è invece un'alleanza politico-commerciale di prestazioni sociali che è l'ALBA, l'Alleanza Bolivariana dei Popoli dell'America, che invece è promossa da Cuba, dal Venezuela e dagli altri stati di sinistra della regione. Y a veces algunas cercanías con los gobiernos del ALBA. O sea, ahí hay como una cosa en la que una vez sí quiere anotarse y otra vez prefiere, ¿verdad?, esperar, no estar del todo con la. Porque como ahí también pasan cosas, ¿no? Que viene de la oficialidad, que viene desde los movimientos, que viene desde. Entonces, siempre vamos, ¿no? Como. Pero sì, tiene una. Sta proprio parlando appunto delle differenze all'interno, c'è chi è più vicino a posizioni più ufficiali, appunto più all'ALBA, anche promossa come scambio commerciale fra i governi di sinistra, lanciata da Chavez l'ALBA, e insomma, però c'è un dibattito interno che sia già una dialettica che si esprime senza avere posizioni fisse. Una vita organica, ahí se sta organizzata por centros, ¿verdad? Centro sur, centro occidente, centro nord. È organizzata territorialmente, quindi varie regioni dell'Honduras, centro sud, centro nord, centro est. Nosotros somos centro sur y a veces no vamos siempre, ¿verdad? Es difícil, son unos espacios difíciles, ¿no? Son espacios también muy muy masculinos, muy masculinizados. Son. E ci tiene molto a sottolineare Carla Lara appunto le difficoltà interne soprattutto riguardo alle questioni di genere, che sono spazi molto maschili, maschilisti, come un po' tutta la cultura del Sud America, possiamo dire. Vabbè, non solo del Sud America. Non solo del Sud America. Il PST, il PSOCA, Círculo Bolivariano, e anche compagnero una serie di gruppi e appartenenze politiche, circoli bolivariani, PSOE, circoli socialisti, insomma, e vari. También que les cuesta mucho a nosotras las feministas, no es como que todavía nosotras podemos pensar que ellos están trasnochados y ellos piensan que nosotras, no sé, como que no tenemos claro porque nos falta formación política, ideológica. E dice, noi femministe li costiamo molto ai compagni che invece sono poco attenti a queste tematiche di genere e che pensano che invece noi non abbiamo ben chiare le cose, che ci manca formazione politica, eccetera. Io credo che sia un po' la storia di tutte le izquierdas, no, in el mundo, y ahí se va, se camina a veces nos paramos. E dice un po' comunque la storia in generale della sinistra nel mondo, e loro proseguono naturalmente con alti e bassi, ma proseguono a fare i loro lavori. Pero son espacios importantes para las cosas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en función del acompañamiento al COPIN, a UFRANE, Sono, è comunque uno spazio importante, ci tiene a sottolineare Carla Lara, soprattutto nell'accompagnamento, nella solidarietà, appoggio e sostegno al COPIN, al Consiglio dei Popoli Indigeni dell'Honduras, che è in resistenza, appunto, che fa per anima molto. È precisamente eso come lo che nos hace volver a converger e volver a hacer cosas, ¿verdad? Y de manera coordinada. Y así funcionamos también un poco en función de las urgencias, ¿verdad? E quindi è uno spazio che serve a fare le cose in maniera coordinata e funzionano così anche in base alle urgenze del momento, insomma. Y yo creo que lo más difícil para no, para la gente entenderlo, pero porque para nosotras y nosotros también es difícil explicarlo, es el tema de entonces, ¿para qué se organizan? La gente dice, ¿ve? ¿Y qué si no vamos a tomar el poder? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Verdad? È la cosa un po' difficile da spiegare, che tutti ci chiedono, ma allora perché ci organizziamo? Se non andiamo a prendere il potere, che cosa stiamo facendo? Qual è il nostro obiettivo? Entonces el tema de la construcción de otros poderes, de reconocer el poder que efectivamente ya tenemos. È proprio la questione di costruire altre forme di potere, riconoscere noi stessi la forma già di potere che abbiamo, che esercitiamo. ¿Verdad? Como movimientos, eso es difícil a veces verbalizarlo y a veces concretarlo también en determinadas acciones que la gente entienda, ¿no? Que por qué es la diferencia, ¿no? Es difícil, appunto, sia argomentarlo, sia farlo vedere alle persone, ai militanti, anche questa forma di contropotere, forse lo possiamo, questo altro potere che riguarda i movimenti in resistenza. Entonces eso sigue siendo una discusión, pero sí hay muchos esfuerzos también de formación política, de pero es difícil. Yo creo que yo, por ejemplo, como feminista puedo sentir todavía el gran vacío. Casi de igual forma entre esas otras estructuras más conservadoras y los mismos que se supone no son tan conservadores respecto a... Porque los compañeros siguen pensando que nosotras... Vaya, nosotras nos integramos al movimiento indigenista, por ejemplo, porque realmente creemos que el modelo extractivista nos está jodiendo y tenemos que hacer la apuesta política en eso. Y nos integramos ahí. Pero los compañeros, siento yo, que cuando quieren hablar de la agenda política nuestra, es como que nos van a hacer una concesión. Insomma, dice, rispetto ai temi femministi, mentre quando noi, ad esempio, ci incorporiamo al movimento indigeno, perché sentiamo che è importante stare lì in quel momento a lottare per le loro rivendicazioni, al contrario, invece, dal punto di vista dei compagni, quando collaborano alle attività, alle azioni femministe, è come se lo facessero, come se fosse una concessione, come se non sentissero veramente loro quella lotta. E non come che, non bajo el entendimiento de que eso también es una cosa que es parte de un modelo, porque el modelo es extractivista, pero el modelo también es patriarcal. Y es capitalista y es neocolonialista. Entonces, esa forma. E quindi perché tutto questo sistema capitalista comprende al suo interno un sistema di sfruttamento estrattivista, un sistema di oppressione patriarcale, e quindi sono tutti temi collegati. La forma in cui si integran, entonces como que la forma in cui los compañeros y las organizaciones acompañan la agenda política feminista y de la diversidad sexual es un poco utilitarista, siento yo. E quindi proprio, no, gli altri compagni sono un po' utilitaristi verso le tematiche di genere, insomma, non le sentono veramente come proprie, ma lo fanno, appunto, come diceva prima, soltanto lo fanno pesare oppure lo fanno come concessione alle compagne. porque conviene vernos femministas, conviene vernos diversos. Perché conviene mostrarci femministi, conviene mostrarci diversi. Pero nos cuesta todavía aceptar a las lesbianas y a los gays, ¿verdad? Entonces. Pero ancora un po' ci costa accettare le lesbiche o i gay. Es como una cosa que hay que trabajar, pero yo creo que también lo nosotras lo tenemos claro. È una cosa su cui bisogna lavorare, ma è una cosa che già noi abbiamo chiaro. Entonces se trabaja sabiendo que pues un poco así ha sido y así va a seguir siendo, ¿no? Por un buen tiempo. Bueno, Carlo. E quindi si lavora sapendo che così è, ma che forse ancora lo sarà per un po', ma che è questo su cui dobbiamo lavorare. Prima dei saluti, siamo ormai a tre quarti della nostra trasmissione, mandiamo un'altra canzone di Carla Lara, la compagna artista in resistenza dell'Honduras che abbiamo intervistato qualche settimana fa e di cui stiamo ascoltando la seconda parte dell'intervista quest'oggi, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ed eccoci di nuovo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa. Avete ascoltato l'intervista a Carla Lara, la compagna honduregna che abbiamo ospitato qualche giorno fa qui a Roma e che ci ha rilasciato questa lunga intervista che presto sentirete e potrete riascoltare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Sentiamo gli ultimi scampoli dell'intervista con i saluti della compagna che ormai è già tornata in Honduras. La te digo muchas gracias para estar aquí para por esta entrevista y insomma ti ringraziamo per essere stata qui e per questa intervista. E sempre quando confrontamos con compañeros de otra parte del mundo vimos que hay problemas similares, no? También insomma ovviamente anche quando si parla con compagni dell'altra parte del mondo, soprattutto di queste tematiche di genere, diciamo che ne siamo pieni anche noi. Questo che stava dicendo sobre il femminismo e la relación de los compañeros mismos con esta cuestión la encontré. Lo stesso, insomma, rapporto dei compagni con queste tematiche, la relazione fra uomo e donna. También aquí en Italia, claro que en Latinoamérica hay una diferente intensidad de explotación. Y ovvio che in Latinoamérica c'è un diverso livello di oppressione. También porque sale de esta parte del mundo por allá, pero e anche perché è uno sfruttamento che viene da questa parte del mondo e va verso di là, non sono le imprese honduregne che vengono a costruire in Italia dei mega progetti estrattivi o a impiantare delle fabbriche di assemblaggio. Muchas de las luchas que están allí en contra de megaproyectos también lo tenemos aquí, así es. E quindi molte delle lotte che ci sono là in realtà ne abbiamo anche delle forme di resistenza anche in Italia. Sempre molto molto importante confrontarnos sobre estas cosas. Te digo otra vez muchas gracias y esperamos vernos pronto y oírnos también. Insomma, pensiamo sia stato molto interessante confrontarsi fra le diverse lotte che si sviluppano anche dall'altra parte del mondo. Ringraziamo ancora e anch'io mi unisco ai ringraziamenti a Carla Lara che adesso penso che saluta. No, gracias a ustedes y sí, yo creo que eso es una cosa que nos tiene que quedar siempre como claras, ¿no? Los hermanamientos son de pueblos a pueblos y esas cosas sirven, se necesitan. E dice sì, anche lei ringrazio e che queste cose sono molto importanti, gli affratellamenti tra i popoli sono molto utili e servono anche alle loro lotte. Verdad? Para reconocer entonces dónde, ¿verdad? Ese quién está, qué intereses son los que de manera igual, ¿verdad? Nos pretenden sobre todo uniformar esas. Yo siempre digo que qué terrible ha sido, ¿no? Que la izquierda siempre habló de bases y de la base, ¿verdad? Las masas. Y el capital, ¿cómo ha sido de audaz para lograr una masa y una base? E dice che è paradossale come la sinistra sempre ha parlato di base, di masse, e in realtà il capitale è stato molto più in grado di ottenere una base delle masse a suo sostegno. Che se iguala, che quiere lo mismo, che sta nella indifferenza totale. Che è uguale tra sé, che chiede le stesse cose, che è indifferente a tutto. A ellos sí lograron hacer una base y una masa. Yo creo que por eso la izquierda tenemos que revisar tanto, ¿no? Nuestra forma de seguir luchando, ¿verdad? Porque e quindi ha ottenuto una base. Effettivamente per questo dobbiamo, noi la sinistra, dobbiamo rivedere tante cose e continuare a lottare y tener la certeza que sí, verdad, que sí hay un problema de ideologización y de pero que tengamos la certeza que es desde la izquierda y que sí es desde esa propuesta anticapitalista, antirracial, antineocolonial, antipatriarcal, desde donde hay que hacerlo, ¿no? Pero cómo. Insomma, dovremmo mantenere noi tutte organizzazioni di sinistra rivoluzionaria, dovremmo mantenere una forte consapevolezza anticapitalista, antiraziale, antineocolonialista, antipatriarcale, antisessista. Vamos a saber, pero estamos aprendiendo, pienso yo, a hacerlo. Gracias. E lei crede che stiano imparando ad avere questa consapevolezza con appunto nei movimenti di resistenza in Honduras. Bene, Carla Lara.